le 8 e 20 minuti. Nel frattempo, ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Questa mattina al microfono stavo leggendo alcuni sms. C'è chi scrive, in particolare un ascoltatore che si firma Angelo da Verona, che dice: ho 59 anni, ho servito messa alle 6 di mattina quando ero giovane senza riscaldamento. Che si vergogni quel prete. E questo ovviamente è riferimento un po' alla nostra ultima, una delle ultime notizie in cui abbiamo raccontato, descritto alcune declinazioni di questa crisi, tra i quali appunto anche il prete veneto, che sostanzialmente ha annunciato la chiusura fino a primavera, fino al ritorno di temperature più miti. Ma adesso parliamo invece di un altro tema, un tema che riguarda tutti e che oggi il Sole 24 Ore riporta in prima pagina. La benzina sfiora quota 1.800 euro al litro, il pieno costerà 200 euro in più all'anno. Colpiti anche i prodotti alimentari, perché naturalmente c'è tutto un effetto a catena che diciamo si rovescia lungo la filiera. Allora, abbiamo questa mattina con noi Luca Squeri, che è il presidente di FIGISC, che è la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti. Buongiorno intanto. Buongiorno a voi. Accise dunque, si fa presto a dire accise, ma cosa sta succedendo al prezzo della benzina, che rispetto a un anno fa cresce in maniera significativa? Diciamo che uno dei pochi prezzi, è una delle poche cose che crescono in questo inizio d'anno. Ma guardi, è molto semplice purtroppo. Rispetto all'anno scorso il prezzo della pompa è aumentato di circa 25 centesimi sulla benzina, di 34 sul gasolio. E 25 centesimi sulla benzina sono stati determinati da un aumento di 20 centesimi di tasse e di 5 centesimi di costo della materia, del cosiddetto quotazione Platz. Gasolio, i 34 centesimi sono stati determinati da 24 centesimi di aumento delle tasse e di circa 10 centesimi di aumento del Platz. Per cui è proprio, ecco che la somma è quella che abbiamo adesso detto. Ecco, quanti sono in Italia i gestori di impianti appunto di carburanti? Sono 24.000, ma in effetti sono troppi rispetto a un sistema. Non gliel'ho ancora chiesto, già mi ha detto se sono troppi, quindi vuol dire, perché è ovvio, lei tira fuori, come dire, un discorso che è ricorrente e che riguarda anche i costi. Prego, perché sì, dice che sono troppi? Perché sono troppi, l'erogato medio italiano è di 1 milione e poco più per impianto, quello, diciamo, la media europea è di 2,5 milioni, per cui più l'erogato è basso, più è inefficiente il sistema, più i costi chiaramente sono aggiuntivi. C'è da dire che c'è anche un aspetto positivo, nel senso che c'è più capillarità, più servizio agli automobilisti, per cui questo viene certamente apprezzato, ma quando i costi arrivano a questi livelli è chiaro che influenza più l'aspetto negativo di quello positivo. Ecco, quanto incide appunto il non adeguamento su scala europea, come ci ha indicato, nel costo finale per l'utente? Ma guardi, rispetto ai numeri che abbiamo detto prima, in realtà poco, perché il gap, diciamo la differenza del ricavo medio, del costo industriale medio, si parla di circa 3 centesimi tra l'Italia e la media europea, per cui sono 3 centesimi tra l'altro colmati ampiamente se si va a fare il rifornimento sugli impianti dove c'è lo sconto ormai diffusissimo dalle compagnie leader piuttosto che le compagnie classiche per arrivare alle pompe bianche, agli ipermercati. Per cui questo delta di 3 centesimi in realtà non è quello che rappresenta il problema che stiamo discutendo adesso. Il problema di cui stiamo discutendo adesso è un aumento di tasse che ci ha portato a essere primi in Europa, tant'è che siamo anche i primi in Europa come prezzo alla pompa. Se poi consideriamo che ci sono alcune regioni che dal 1 gennaio hanno applicato l'addizionale di tasse sulla benzina, abbiamo regioni come la Toscana che dal 1 gennaio ha aumentato di ulteriori 5 centesimi le tasse, e le Marche addirittura sono arrivati a 7 centesimi e mezzo. Insomma, abbiamo una situazione ormai dove su un litro di benzina su 170 monetine da un centesimo, 100 sono di tasse. Insomma, sulla benzina, sul gasolio si costruiscono davvero storie del paese e delle opere che il paese realizza. Pensate, oggi sul Secolo XIX c'è un interessantissimo schema che racconta la storia dell'accisa nazionale sulla benzina dalla guerra di Etiopia. Allora era lo 0,00103, quindi due zeri dopo la virgola, e c'è un percorso che passa attraverso Suez, il disastro del Vajont, il Belice e il Friuli, l'Irpinia, quindi i terremoti, ma anche le grandi operazioni militari internazionali come la Bosnia e il Libano, fino ad arrivare alla cronaca di questo anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, l'emergenza per gli immigrati libici, l'alluvione in Liguria e Toscana e poi la manovra Monti, e qui siamo allo 0,112. Insomma, non solo si sommano e crescono, ma cresce proprio nella percentuale. Tutto questo peraltro in un anno in cui le immatricolazioni delle auto crollano. Questo viene titolato come l'anno nero dell'auto, vendite giù del 10,8%, questo è il dato complessivo. La benzina, i carburanti, Squeri, sono sempre una risorsa finale, chissà fino a quando. Ma lei dice come scorte che sono... No, io dico come tassazione, come punto per... Speriamo che per i prossimi anni lasciano in pace questo prodotto, che è davvero diventato un grande problema per noi gestori. Voi sapete che noi abbiamo un margine fisso, per cui quando aumenta per noi sono solamente oneri finanziari maggiori. Sono non lo sappiamo, ci spieghi. Voi avete un margine indipendentemente, una margine percentuale? Abbiamo 4 centesimi mediamente al litro, per cui sia che aumenti sia che diminuisca, cosa che ormai non avviene da tempo, sì, infatti, però sempre quello rimane, per cui non c'è da... Noi non gioiamo, anzi siamo i primi a essere, diciamo, penalizzati, per l'appunto, perché aumentano gli oneri finanziari, insieme agli automobilisti che stanno veramente vedendo delle cifre all'erogatore che sono pesantissime. È chiaro, poi ci sarà tutto, come ha già detto lei, un seguito ancora più penalizzante per il costo dei prodotti in generale. Ecco, c'è una risposta aumento consumi alla pompa oppure no? Sì. C'è ormai, ma non da adesso, da un paio d'anni. Adesso devo dire che ci aspettiamo situazioni ancora più recessive anche da questo punto di vista, nel senso che il cittadino ha meno soldi in tasca, per cui fa attenzione a tutto, giustamente, e chiaramente fa attenzione anche a come utilizza l'autovettura, e dunque i consumi sono assolutamente in diminuzione. Saranno i più tartassati gli automobilisti liguri, scrive sempre il Secolo XIX questa mattina, ma rispetto agli altri, gli imperiesi hanno una risorsa in più, i distributori francesi. Così da ieri al confine di Ventimiglia è stato segnalato un via vai di macchine italiane, destinazione alla pompa di benzina più vicina, ovviamente, dove la verde costa meno che in Italia. L'Italia ha dunque prezzi più elevati del resto d'Europa di 3,5 centesimi. Come ci diceva in apertura, non era così. Solo un anno fa, nella classifica appunto europea, eravamo intorno all'ottavo decimo posto, se non ricordo male, eravamo decisamente più indietro. Ha detto bene, adesso siamo al primo posto, sia come tasse e sia conseguentemente come prezzo alla pompa. Tra l'altro, il problema che ha evidenziato l'ascoltatore di Imperia è un problema abbastanza diffuso in tutte le zone di confine. Abbiamo in Friuli la Slovenia, che è da anni che pone questo problema, c'è la Svizzera nella parte di Como Varese, e in queste zone le regioni sono intervenute cercando di diminuire la componente di tasse, con anche, diciamo, risultati efficaci. Adesso stanno prendendo ulteriori, diciamo, provvedimenti, perché con l'aumento ultimo delle accise l'efficacia era venuta meno, stanno cercando di metterci una pezza. Grazie a Luca Squeri, lo ricordo, presidente di FIGISC, che è la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali. Carburanti 1800 euro al litro dai numeri, scrive un ascoltatore, se ho detto così senz'altro, 1,8 euro al litro. Altri messaggi: blu super più a 1,908 Milano autostrada. Un ascoltatore invece da Trieste ci dice: sono appena andato a fare il pieno in Slovenia, gasolio a 1,277, insomma, e aggiunge: meno male che vivo a Trieste. Ecco, qualcuno, come abbiamo sentito in Liguria in queste ore, quindi ovviamente nella parte occidentale si spinge verso la Francia, dalla parte opposta nel nord-est verso la Slovenia, ma naturalmente questi sono palliativi territoriali. Altro tipo di problematica e complessità, anche se riguarda parecchio il tema dei carburanti, è quello e del petrolio, degli idrocarburi, dunque ne parliamo più tardi, tra pochi minuti, dove ci spostiamo nell'area del Golfo Persico, tra i nostri ospiti l'ex ambasciatore israeliano in Italia Avi Pasner, Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. 24 mattino. Minuti con Gigi Donelli al microfono, Alessandro Longoni oggi in assistenza, Peter Bescapè in regia. Il tema iraniano, la crisi internazionale nel Golfo Persico. In questi giorni abbiamo raccontato di una sequenza di mosse che riguardano Hormuz, quindi lo stretto e il percorso delle grandi petroliere, i movimenti delle porte aeree americane, insomma alta tensione nello stretto. Ne parliamo questa mattina con Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, da anni segue il dossier iraniano e nostro ospite anche l'ex ambasciatore israeliano in Italia, portavoce del governo di Israele, Avi Pasner. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Leggo l'ultima agenzia: l'Iran prosegue la messa a punto della sua arma nucleare, dice il ministro degli esteri francese Alain Juppé alla rete televisiva Tele1. L'Iran prosegue la messa a punto, credo che non sussista alcun dubbio su questo. E l'ultimo rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è esplicito su questo punto. Insomma, Parigi sembra quasi levare le mani da un meccanismo che si muove molto pericolosamente verso una situazione di grande pericolo. Pasner, Israele quando, fino a che punto, diciamo, potrà aspettare che questo percorso, che per certi versi sembra davvero diventato ineluttabile, quasi autonomo, ecco, fino a quando potrà aspettare, quando sappiamo, e gli stessi vertici iraniani l'hanno detto esplicitamente, che il primo bersaglio, insomma, la prima destinatario di un potenziale nucleare iraniano potrebbe essere proprio lo Stato ebraico? Credo che non abbiamo già molto tempo, perché è possibile che dentro un anno, se l'Iran decide di avere l'arma nucleare, l'avrà dentro un anno. Vuol dire che molto tempo non c'è qui. Però voglio dire una cosa, che non è soltanto Israele che è nel mirino degli iraniani, e anche tutti i paesi del Golfo, l'Arabia Saudita, l'America con le sue forze navali nel stretto di Hormuz, l'Europa che impone sanzioni all'Iran. Vuol dire che il pericolo non è soltanto per Israele, questo è un pericolo generalizzato, e l'Iran ha dimostrato in questi giorni che sta pronta a anche andare all'estremismo e a chiudere lo stretto di Hormuz. Vuol dire a fare così che il prezzo del petrolio doppia o tripla, invece è in caso di guerra, e qui questo non è un segnale per Israele, questo è un segnale per la comunità internazionale, e questo vuol dire noi, l'Iran, noi siamo una minaccia non soltanto per Israele, che evidentemente, come le ha detto, è il primo oggettivo, però ci sono molti altri, perché noi vogliamo diventare il potere numero uno non soltanto nel Medio Oriente, però in tutta la regione. Ecco Pazner, c'è ancora un dialogo possibile secondo voi, o la situazione sta davvero prendendo questa deriva che di fatto porta a muoversi quasi in autonomia, questo conto alla rovescia inarrestabile? Io vedo che fino adesso il dialogo con l'Iran non ha avuto nessun risultato. Al contrario, l'Iran ha preso questo dialogo per nascondersi dietro il dialogo e continuare con frenesia la corsa all'arma nucleare. E noi non vediamo che qui il dialogo è una possibilità, l'unica possibilità sono delle sanzioni molto forti, delle sanzioni che fanno capire all'Iran che così non può continuare, e fino adesso ci sono delle sanzioni, però le sanzioni sono troppo debole. Quindi sanzioni ben più forte, dice Avi Pazner, sanzioni di cui si parla proprio in queste ore, quando si ragiona appunto sulla banca centrale, sul meccanismo di fatto che muove il sistema economico iraniano. Torniamo naturalmente dall'ambasciatore Alberto Negri. La sensazione, ripeto, da tutto personale, è che ci sia uno scivolamento fuori controllo, ma l'Iran, con tutte queste dimostrazioni anche di questi giorni, le operazioni militari, i missili a corto e a lungo raggio, la presentazione della barra di uranio, che naturalmente è la base per la costruzione di materiale bombabile, dove vuole arrivare? Ma è difficile dirlo. Finora la leadership iraniana si è sempre dimostrata molto abile nell'aprire negoziati che poi non portavano a nulla, e comunque ha sempre saputo fermarsi prima del baratro, cioè di un possibile confronto militare. La reazione di questi giorni, la retorica bellicistica che abbiamo visto nello stretto di Hormuz, le minacce di chiusura dello stretto stesso, mi sembrano un po' il sintomo sempre più evidente di un malessere profondo. Cioè l'Iran ha un confronto in atto con l'Occidente dalla rivoluzione islamica del 69, è il vero capofila contemporaneo del fronte del rifiuto, tenta di ottenere da decenni un riconoscimento del suo ruolo di potenza egemone della regione, ma ha anche capito perfettamente che nell'Occidente, negli stati della regione, cioè le monarchie sunnite, né Israele tantomeno, sono disposte a tollerare un suo arsenale nucleare. Ha capito pure che queste sanzioni che ha varato Obama, che ha firmato Obama il 31 di dicembre a Capodanno, se venissero applicate potrebbero cominciare a diventare davvero sanzioni paralizzanti come vorrebbe Israele. Cioè, per esempio, il blocco delle transazioni con la banca centrale taglierebbe le gambe al commercio del petrolio in buona parte del mondo, ma Obama si è lasciato uno spazio ancora, un margine per applicarle, per capire e valutare quali potrebbero essere le conseguenze sui mercati, per capire quali possono essere le reazioni degli alleati europei, per vedere se da Teheran, oltre alla risposta che abbiamo visto in questi giorni, possa venire qualche cos'altro. Certamente l'Iran sente in questo momento l'isolamento, e tutto questo non è solo il sintomo, come dicevo, di un malessere rivolto verso l'esterno, ma anche interno di un paese dove è in atto anche uno scontro di potere. Ecco, questo dell'elemento dello scontro di potere è un tema anche ricorrente in un paese che più delle volte si cerca di leggere appunto nei chiaroscuri piuttosto che dalle comunicazioni ufficiali. Le nuove sanzioni, cui accennava Alberto Negri un istante fa, entreranno in vigore tra 60 giorni, l'applicazione più stretta dovrebbe cominciare tra 6 mesi, insomma esiste anche un tempo che è quasi fisiologico di questi meccanismi durante il quale appunto lo Stato iraniano, lo Stato islamico potrà eventualmente cercare una via di uscita, un percorso alternativo. Ma vorrei chiedere all'ambasciatore Pazner, nel frattempo lo scenario non è solo quello iraniano, nel frattempo anche un importante vostro vicino come l'Egitto sta cambiando pelle dopo anni di un regime che adesso naturalmente di cui tutti lamentano il passato, le storture, insomma dal punto di vista della stabilità dall'Occidente e di Israele il regime Mubarak rappresentava però un punto di riferimento. Questo aggiunge complessità e preoccupazione alla protezione dello Stato israeliano? C'è una situazione cambiata, però noi speriamo che anche il nuovo futuro governo egiziano capisca l'importanza strategica non soltanto per Israele, ma anche per l'Egitto delle relazioni pacifiche fra i due paesi. Voglio ricordare che la pace fra Israele e l'Egitto è arrivata dopo 30 anni di guerra che hanno causato un effetto economico terribile, economico e sociale terribile in Egitto. Quell'accordo di pace con Israele è stato firmato perché l'Egitto ha visto che questo cammino di guerra non porta niente di buono per l'Egitto. E noi speriamo che il nuovo governo Egitto, quando sarà eletto, capirà anche questo. Vuol dire che io non voglio paragonare fra le relazioni con l'Egitto, di Israele con l'Egitto, e ciò che succede con l'Iran, perché l'Egitto non è una minaccia regionale o mondiale, è un paese che subisce delle convulsioni rivoluzionarie. Evidentemente noi dobbiamo seguire con molta attenzione ciò che succede lì, però e che ha portato e che porta di fatto verso il governo i Fratelli Musulmani, che per anni sono stati strenui oppositori di qualsiasi accordo con Israele, quindi però sono cambiati, dice, con l'ottimismo della politica. Non lo so, speriamo che anche il nuovo governo egiziano, che sarà composto non soltanto, mi immagino, dei Fratelli Musulmani, però anche di altri partiti, capirà l'importanza dei legami con Israele, dei legami pacifici. Ancora una volta lo dico, l'importanza per l'Egitto. L'Egitto è un paese di 80 milioni di abitanti in una situazione oggi terribile economicamente e sociale, e io non voglio immaginare ciò che potrà essere la situazione in Egitto si imbarcano un'altra volta in una confrontazione con Israele. Però non possiamo paragonare i due scenari con l'Iran. Chiarissimo, Pazner. Agenzia delle 8:46. Il capo delle forze armate iraniane ha detto che l'Iran agirà se una porta aerea americana tornerà nel Golfo, tanto per rimanere in tema. Avi Pazner, in una battuta, perché Israele può avere l'atomica e l'Iran no? Che noi sempre abbiamo detto che non saremo i primi a introdurre l'arma atomica nel Medio Oriente. Questa è la nostra politica, e noi purtroppo abbiamo dovuto passare per molte guerre nella nostra storia, come ha visto non abbiamo mai introdotto l'arma atomica nel Medio Oriente e i nostri conflitti con i nostri vicini. Alberto Negri, questione dunque di fiducia, questione di stabilità, di nervi saldi. Prima ci stavi descrivendo, come dire, abbiamo lasciato in sospeso il tema del conflitto di potere interno. Intanto magari ti chiedo di commentare quest'ultima agenzia che ho appena letto, appunto quando il capo delle forze armate dice che l'Iran agirà se una portaerea americana tornerà nel Golfo. Fa proprio un po' quel discorso dei passi quasi... automatici, ma tu che ne pensi? Ma io penso che siano proprio in queste ore che gli iraniani stanno mostrando i muscoli innervositi, anche proprio dal fatto che Obama ha preso questa decisione di fermare questo decreto. Capiscono e sentono sempre di più e le dichiarazioni internazionali, ma le stesse di quadro che disegnava Partner prima e anche le dichiarazioni che vengono dalla Francia, da parte di Juppé, indicano insomma che intorno all'Iran si sta un po' stringendo la morsa, magari non in maniera così efficace, con delle sanzioni così immediate come vorrebbe Israele, ma sicuramente si fa sentire la pressione internazionale e di ora in ora loro cercano di mostrare i muscoli in questa retorica bellicista che io non credo però possa portare davvero a un confronto militare in cui l'Iran avrebbe quasi sicuramente da perdere. Ecco, questo naturalmente è anche una considerazione importante, un confronto militare per il quale negli ultimi giorni si è aperto anche in qualche modo un corridoio. Non dimentichiamo, la fine del 2011 porta anche la fine delle operazioni militari in Iraq, il nord dell'Iraq quindi diciamo libero dalla copertura americana, almeno sul piano formale. Alberto, sembra quasi, come dire, volere trovare delle connessioni, ancora una volta quella è una via militare tra il Golfo Persico da una parte, una via militare, naturalmente mi riferisco ad un eventuale attacco aereo. Ma non c'è dubbio che ci troviamo in un contesto geopolitico e strategico di alta tensione. E c'è stato il ritiro americano dall'Iraq, la Siria, in Siria c'è un regime che appare sempre più pericolante, lo ha detto lo stesso ministro della difesa Ehud Barak in queste ore. L'Egitto è in preda alle convulsioni di cui si diceva prima. La Turchia stessa, di cui non abbiamo parlato, ha accettato comunque di accogliere lo scudo missilistico della NATO, che non viene detto, ma è rivolto in gran parte nei confronti dell'Iran. Insomma, ci troviamo in una situazione in cui l'evoluzione anche sul terreno di quello che accadrà nei paesi che citavo prima può essere determinante per aprire la possibilità o meno di un confronto militare con l'Iran. Questo confronto di cui si parlava prima, abbiamo detto molto di quello che è l'aspetto esterno, poco abbiamo parlato però di quello che è il che fronte avviene all'interno, sì. E io credo che anche questo abbia un peso, incide parecchio, perché è in atto da diverso tempo uno scontro tra la guida suprema, Ali Khamenei, e il presidente Ahmadinejad. Khamenei si è stretto intorno ai suoi generali, i generali che ha nominato lui. Ci sono 12 generali, maggiori generali in Iran, 8 li ha nominati lui, quindi anche quelli che parlano oggi parlano in qualche modo con l'assenso della stessa guida suprema, che in qualche modo voleva anche mettere con le spalle al muro, ma dire già ci saranno le elezioni legislative tra poco tempo a marzo, le presidenziali nel 2013. Khamenei vuole fare fuori Ahmadinejad e portare i militari, i capi dei Pasdaran, dentro il Parlamento e forse anche alla Presidenza della Repubblica. Insomma, uno scenario interno estremamente complesso, non da oggi, aggravato da queste tensioni, da un contesto internazionale, effettivamente, come dire, quasi senza volerlo abbiamo toccato tutti quelli che sono i grandi paesi della regione. Pasner, tutto questo in un anno che è anche quello delle elezioni negli Stati Uniti. lo storico, insomma, rapporto Stati Uniti-Israele porta nei mesi passati a quantomeno a descrivere degli Stati Uniti una presidenza Obama prudente, ma Israele è nelle condizioni, diciamo, di seguire i tempi della diplomazia americana, oppure c'è un momento in cui, proprio per la storia, la complessità e la particolarità dello Stato, dovrà agire comunque? No, noi siamo in contatti molto stretti con i nostri alleati americani, però questo non vuol dire che noi dobbiamo fare esattamente tutto ciò che vuole la diplomazia americana. Noi abbiamo anche i nostri interessi e noi dobbiamo prendere in conto che c'è un pericolo esistenziale per Israele in tutta questa situazione, però posso dire che le nostre relazioni con l'amministrazione americana sono eccellenti e il dialogo è un dialogo quasi ogni giorno. Gli americani sono molto molto preoccupati di ciò che succede oggi in Iran e nel stretto di Hormuz, e il fatto che non c'è stata ancora una risposta americana, una reazione americana, è perché il presidente Obama si trova in Hawaii, adesso sta tornando a Washington, e io mi immagino che oggi o domani sentiremo tutti la reazione americana a ciò che succede adesso in Iran e nel Golfo Arabo. Grazie a Avi Pazner, lo ricordo, ex ambasciatore israeliano in Italia, portavoce del governo di Israele. Intanto, durante le vacanze, non dimentichiamolo, Obama ha avuto comunque il tempo, e quindi, come dire, con una scelta che è anche un messaggio politico molto preciso, di firmare una cessione importantissima di aerei da combattimento all'Arabia Saudita. Alberto Negri, vorrei concludere con te su un'ipotesi. Allora, ipotesi, diciamo, la necessità di eliminare questo pericolo specifico per Israele passa attraverso un'azione armata, un'azione che si suppone composta da droni, cacciabombardieri. Ecco, quanti bersagli secondo te dovrebbe colpire un'operazione di questo tipo per riportare indietro, chissà di quanto, l'orologio appunto del pericolo nucleare? Ma ci sono dei bersagli, c'è la famosa opzione Osirak, che prende il nome dall'operazione che fece proprio Israele nel 1981 distruggendo un reattore nucleare dell'Iraq, poi fu seguita nel 2007 da un'altra operazione israeliana che in Siria distrusse un altro impianto nucleare ad Erzur. Bene, credo che però questa volta l'operazione nei confronti dell'Iran debba assumere, se Israele lo facesse, dimensioni molto maggiori. Io non credo però a una guerra di Israele contro l'Iran da solo, e comunque penso che ci sarà una coalizione internazionale se ci sarà un attacco all'Iran. La pressione internazionale è troppo forte e soprattutto in una zona troppo strategica, perché lì sono esposti a rappresaglie iraniane tutte le monarchie del Golfo, grandi produttori di petrolio. Non penso che sia possibile un'operazione soltanto israeliana unilaterale, credo che si creerà una coalizione internazionale. Questo forse è quello che teme di più, quello che teme di più l'Iran. Un attacco israeliano può distruggere degli impianti militari ma non cambiare un regime. Una coalizione internazionale e soprattutto delle sanzioni molto dure sul petrolio possono in qualche modo invece minare dall'interno la stessa Repubblica Islamica. Ecco, l'ipotesi in qualche modo di un modello iracheno, anche se è un po' orribile parlarne in questi termini, ma proprio dopo l'esperienza irachena, l'Occidente avrà, come dire, voglia di imbarcarsi in una palude che non può che essere uguale, se non peggiore, della storia appunto degli ultimi anni? Ma l'Iran ha un grande scudo che non è quello atomico per il momento, un'atomica che ancora non ha. E il grande scudo dell'Iran in questo momento è la crisi economica internazionale, i grandi problemi mondiali dell'economia. Questi potrebbero trattenere molto di più un attacco razionale di qualunque altra considerazione strategica. Grazie ad Alberto Negri per essere stato con noi questa mattina. David Pastner, lo ricordo, ex ambasciatore israeliano in Italia, naturalmente a Luca Squeri, presidente della FIGIS, Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali, con cui abbiamo parlato di caro benzina. Grazie ad Alessandro Longoni in assistenza, Peter Bescapè in regia. È tempo degli aggiornamenti di GR24. Noi ci risentiamo domani mattina. Buona giornata.